24. La storia. Siamo alla fine degli anni venti. Gli Stati Uniti vivono un periodo di straordinaria euforia e ricchezza. Per gli americani la sensazione è che quello sia un benessere senza fine. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia dei mesi immediatamente precedenti a quello che è conosciuto come il martedì nero, ovvero il crollo della borsa di Wall Street. Era il 29 ottobre del 29. Il 29 è l'alba di una nuova era, come spiega l'economista John Galbraith. Un solo anno diventa il simbolo di un decennio di speranze, promesse, illusioni. Gli Stati Uniti sono ossessionati dall'idea di nuova era. Non dobbiamo pensare neanche un istante che l'illusione, l'aberrazione degli anni venti sia stata un episodio isolato. È invece parte integrante del DNA americano. In America è la prima volta che anche l'uomo della strada inizia a investire soldi in azioni. Nelle sale della borsa di New York si comprano e vendono azioni in continuazione. I titoli stessi non hanno un valore fisso, esattamente come avviene in un'asta: se c'è richiesta il prezzo sale, se non c'è richiesta il prezzo scende. Dal 1920, per 8 anni, il valore delle azioni non fa che salire. Nel 29 sembra che non ci siano più confini a questo mondo di carta, di numeri e di sogni, come descrive Michael Nesbitt, nipote di Michael Meehan, uomo d'affari a Wall Street. Era un'arena di sconfinate opportunità, dove una persona come mio nonno poteva venire dal nulla e fare fortuna. Tante persone guadagnarono tanti soldi investendo nel mercato durante gli anni 20. Sembrava che non si potesse sbagliare se si compravano azioni di aziende americane. È un modo completamente nuovo di fare fortuna. Non come era successo 20 anni prima per i Carnegie e i Rockefeller, che avevano costruito acciaierie e scavato pozzi di petrolio. Uomini come Michael Meehan, Jesse Livermore e Charles Mitchell accumulano ingenti somme di denaro semplicemente comprando e vendendo azioni, ovvero pezzi di carta. Il pubblico è affascinato, banchieri, investitori, speculatori diventano tutti celebrità e vivono da re, come racconta la nuora di Livermore, Patricia. Jesse Livermore possedeva in ogni casa un ticker, la telescrivente che trasmetteva in tempo reale le quotazioni delle azioni. Avevano una casa sulla 76esima Manhattan, un intero piano sulla quinta strada, che Dorothy usava come camerino per cambiarsi. Avevano una casa a Great Neck, una casa di villeggiatura a Lake Placid, una a Palm Beach. Possedevano dei vagoni ferroviari privati, 2 yacht. Se la godevano davvero la vita. Pochi naturalmente in America vivono nel lusso più sfrenato come Jesse Livermore e gli altri grandi magnati della finanza. Tutti però in America credono in qualche modo alla possibilità di guadagnarsi un pezzo di quel grande sogno americano. Siamo nel 28, alla vigilia dell'elezione presidenziale. Anche il candidato alla Casa Bianca, Hoover, sa che per gli americani la promessa di nuove ricchezze è una tentazione irresistibile. Se ci sarà data la possibilità di proseguire con le politiche adottate in questi ultimi 8 anni, presto, con l'aiuto di Dio, si avvicinerà il giorno in cui cancelleremo per sempre la povertà da questo paese. C'era grande speranza. L'America uscì dalla prima guerra mondiale indenne come unica nazione potente del mondo. Il dollaro troneggiava. Avevamo un presidente molto amato, Coolidge, seguito nel 28 da uno ancora più amato, Hoover. Il futuro sembrava davvero roseo. In questa nuova America l'economia sta cambiando. È l'alba di una rivoluzione consumistica. Nuove invenzioni, commercio di massa, fabbriche che producono oggetti favolosi come la radio, le stufe, condizionatori d'aria, deodoranti intimi. In questo periodo il cittadino medio americano compra la lavatrice, il frigorifero, abbandona l'illuminazione a gas per quella elettrica e tra le invenzioni, la più importante, è la vendita a rate. Lo slogan «Compra oggi, paghi domani» diventa una prassi comune e il merito di tale prosperità va, secondo l'opinione pubblica, a Wall Street e ai suoi finanzieri. Uno di questi è William C. Durant. All'inizio del secolo, Durant aveva fondato la General Motors. Ora, a distanza di pochi anni, fa fortuna a Wall Street. Con il sostegno delle case automobilistiche del Midwest, controlla una quantità tale di soldi da riuscire da solo a mandare su un titolo e quindi rivenderlo poco dopo, ottenendo enormi profitti. Ce ne parla il suo segretario. Era all'apice del successo e anche del suo potere. Aveva tra le mani, secondo le voci che circolavano allora, un flusso di denaro che oscillava tra i 2 e i 5 miliardi di dollari, una cifra enorme per quei tempi. Il mercato era pieno di speculatori e lui era lo speculatore degli speculatori. William Durant arriva a Wall Street come uno dei titani dell'industria. Jesse Livermore, invece, la cui fortuna ammonta oltre 100 milioni di dollari, nella sua vita non ha fatto altro che giocare in borsa. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi con Marina Milone è la storia del crollo di Wall Street del 29. Ma come si arrivò a quel martedì nero negli Stati Uniti? Il successo degli speculatori di Wall Street, come Livermore e Durant, attrae piccoli e insperati investitori. E Charles Mitchell, presidente della National City Bank, a introdurre la vendita al pubblico delle azioni su vasta scala. Un'idea completamente nuova di grande successo, raccontata dal figlio Craig. Quando mio padre aveva circa 38 anni, la National City Company aveva 4 uffici. In solo 3 anni passò ad oltre 50 uffici. Nel 1929 era diventata il più grande distributore di titoli nel mondo. All'apice della frenesia speculativa, soltanto una minima parte del pubblico americano investe in borsa. Ma il mercato ormai fa parte della cultura popolare. Wall Street diventa la Main Street. Tutti iniziano a parlare il gergo della borsa. Guardare le azioni salire e scendere diventa uno sport nazionale. Le riviste popolari iniziano a interessarsi alle notizie finanziarie. Sono decine i manuali che promettono preziosi consigli su come investire. Alcuni addirittura si affidano ad un'astrologa, Evangeline Adams. Negli anni 20 e 30, il mercato azionario aveva un grande punto a suo favore, il fatto di non essere controllato. Gli operatori potevano fare molte cose che oggi sarebbero vietate. Siamo insomma nel Far West. La Wall Street degli anni 20 è un mercato senza leggi e in una situazione del genere hanno facilità ad arricchirsi quanti non fanno fatica a speculare in borsa e a drogare il mercato. E questo è proprio quello che accade con un titolo in particolare, con le azioni delle RCA, la Radio Corporation of America. La RCA degli anni 20 era come la Xerox negli anni 60, ovvero un titolo in grande crescita. Le azioni partirono, se ricordo bene, all'incirca da 20 dollari e arrivarono fino a 400 dollari. La RCA fece arricchire molte persone, tra cui mio nonno. Era uno di quei titoli che venivano manipolati da una cordata di investitori. Era Michael Nesbitt, nipote di Michael Meehan, uno dei manipolatori delle azioni specializzato nelle RCA. Una cordata di investitori si mette d'accordo per gonfiare un titolo nel prezzo e rivenderlo ad un pubblico ignaro. La maggior parte dei titoli negli anni 20 viene manipolata grazie ad informatori interni alle aziende, gli insider. A quei tempi si trattava di una cosa legale. Per chi lavorava a Wall Street era una pratica comune prendersi cura di un particolare titolo. Iniziavano a prendere possesso del titolo fin da subito e si occupavano del fatto che trovasse spazio all'interno della stampa, insomma che fosse adeguatamente pubblicizzato. Iniziavano a dipingere il nastro, come si dice in gergo, ovvero a far apparire il titolo molto appetibile. Vendevano e compravano le azioni fra di loro, mentre il pubblico leggeva incoraggianti articoli sui giornali che parlavano della RCA. La totalità dei giornali finanziari era dentro l'affare. I reporter del Wall Street Journal, del New York Times, dell'Herald Tribune. Se eri un operatore di borsa, bastava chiamare un amico al Times e dirgli: Charlie, c'è una busta che ti aspetta, pensavamo, non so, che magari potresti scrivere qualcosa di buono sulla RCA. E Charlie avrebbe scritto qualcosa di buono sulla RCA. Un pubblicitario di nome Plummer staccò assegni per ogni importante giornalista di New York. Tu segui un titolo, ti sembra interessante e inizi a comprare. Così il titolo sale da 10 a 15 e poi a 20. Tu cominci a comprare, altri ti seguono e in breve il titolo sale a 30 o 40. Ma il gruppo iniziale, quello che ha dato il via a tutto, ha smesso di comprare, sta vendendo. Tu compri a 50, ma sono loro che vendono. E a quel punto, naturalmente, il titolo crolla. 8 marzo 1929, Michael Meehan dà il via a una delle cordate di maggiore successo a Wall Street. Dall'8 al 17 marzo, Meehan e i suoi soci fanno salire il titolo della RCA quasi del 50%. Poi, il 18 marzo, vendono tutto e si dividono i profitti. Al valore di oggi si parla di quasi 100 milioni di dollari in una sola settimana di lavoro. Somigliava un po' a quel gioco di società. Quando la musica finisce, tutti si siedono, ma qualcuno resta senza sedia. E si trattava sempre dei piccoli investitori. Era Michael Nesbitt, nipote di Michael Meehan. Se i piccoli investitori perdono dei soldi, è facile che prima o poi ci riprovino. Sanno che il mercato è falsato. Nonostante tutto, credono di riuscire prima o poi a battere il sistema. Siamo nel marzo del 29. Al grande crollo mancano poco più di 7 mesi. Uno dei pochi a lanciare l'allarme è l'economista Roger Babson. Ma resta completamente inascoltato, eppure nell'euforia di Wall Street c'è anche qualcuno di inaspettato che non crede al miracolo, è un gangster, è Al Capone. Al Capone decide di investire i suoi soldi nel contrabbando di liquori, un business da 100 milioni di dollari che non conosce crisi. Condanna le speculazioni di Wall Street e afferma: è una truffa, questi tizi che lavorano alla borsa sono dei delinquenti. 4 marzo 1929. Il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, Herbert Hoover, neoeletto con un'amplissima maggioranza, promette di andare avanti nella convinzione che il commercio sia la base della ricchezza dell'America e che lo Stato non debba interferire. Ce ne parla ancora John Galbraith. Erano tempi in cui il governo non si sentiva responsabile per ciò che succedeva nell'economia. Era presente, ma l'attività economica, la stabilità dei prezzi non erano tra i primi pensieri del presidente. Venerdì 22 marzo 1929, tutti gli occhi sono puntati sul Consiglio della Federal Reserve, un organismo che nutre dei dubbi nei confronti del boom. Giudica le speculazioni come avventate e pericolose, perché si poggiano sempre di più su fragili fondamenta, ovvero il denaro preso in prestito. Senza margine, il sistema rischia di crollare. Il Consiglio si riunisce per giorni, molti si domandano se imporrà una regolamentazione del mercato, ma dal Consiglio non viene nessuna dichiarazione ufficiale. Il silenzio è ancora più preoccupante. Lunedì 25 marzo, gli investitori cominciano a vendere, le blue chips crollano. Martedì un'altra ondata si abbatte sul mercato. Ad essere danneggiati sono gli investitori che hanno comprato a credito. Avevano dovuto pagare un acconto del 10%, ma poiché i titoli sono scesi molto di più del 10%, i soldi investiti si sono volatilizzati. Per conservare le azioni dovrebbero investire ancora altri soldi. Improvvisamente il 26 marzo milioni di investitori sono nei guai, ce ne parla lo storico Robert Sobel. Il tuo promotore finanziario ti poteva chiamare e dirti: servono altri soldi, lei è a secco. E a meno che non avessi soldi da dargli, eri costretto a vendere le azioni. Questa vendita faceva sì che il titolo scendesse da 86 a 85, innescando una nuova reazione a catena senza fine. Siamo nel marzo del 29, non siamo al crack definitivo, ma i segnali ci sono tutti. Per compensare le perdite, piccoli investitori chiedono in prestito altri soldi, ma il sistema sotto queste richieste va in crisi. Per la Federal Reserve l'unico modo di fermare l'indebitamento dei cittadini è quello di alzare i tassi di interesse. Ma i banchieri privati hanno un'altra strategia, serve che il mercato continui a tirare. Dunque decidono di prestare denaro ai loro investitori a un tasso molto inferiore a quello fissato dalla Federal Reserve. In prima fila in questa missione è uno dei nostri protagonisti, Charles Mitchell, a raccontarlo il figlio Craig. Mio padre a questo punto si fece avanti e annunciò che la National City Bank avrebbe fornito 25 milioni di dollari di credito, che di per sé era una mossa anche necessaria e positiva, ma ebbe l'imprudenza di aggiungere: e non mi interessa quello che pensa la Federal Reserve. Il senatore Carter Glass, il padre della legge che nel 1913 aveva istituito la Federal Reserve, vide questa affermazione come uno schiaffo morale. Nonostante l'opinione del senatore Glass, nell'immediato la crisi dei crediti venne scongiurata. Nell'arco di 24 ore i tassi di interesse scesero dal 20 all'8% e il panico rientrò, almeno per il momento. 27 marzo, il mercato si riprende. La Federal Reserve si astiene da ogni commento. Accettando la sconfitta, l'eroe del giorno è Charles Mitchell, che è riuscito da solo a impedire il crack, almeno per il momento. Con l'inizio del campionato di baseball, la gente comincia a dimenticarsi la crisi. Ci sono nuovi avvenimenti con cui riempire le pagine dei giornali, a partire da questo messaggio di Elizabeth Arden. La principale notizia del giorno non è l'accordo navale, non è neanche il proibizionismo, ma il ritorno di una linea snella e naturale. Nella primavera del 29 non va tutto bene per l'economia americana. Si iniziano a intravedere segnali minacciosi. La produzione dell'acciaio rallenta, il settore delle costruzioni è fermo. Le vendite di automobili crollano, è sempre più difficile trovare nuovi clienti. A causa della facilità con cui si è fatto credito, le persone sono indebitate fino al collo. Ampie fasce di popolazione sono sempre più povere. Per tutti gli anni 20, Wall Street ha di fatto rispecchiato la crescita dell'economia. Ora che questa sta vivendo un periodo di rallentamento, ci si aspetta che anche la borsa non si rialzi. Ma non è così. Il mercato sale e a passo di record. I prezzi delle azioni legate alle aziende non hanno più nulla a che fare con l'economia. La bolla speculativa vive ormai di vita propria. Ancora John Galbraith. Si era arrivati all'apice dell'illusione di massa. I prezzi salivano, la gente comprava. Questo spingeva i prezzi sempre più in alto e questo attirava sempre più investitori. Era un circolo vizioso che si autoalimentava. Ogni crescita del mercato attira in borsa nuove persone convinte del loro diritto naturale di diventare ricche. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia del martedì nero della borsa americana nel 29. Siamo al maggio del 29, la crisi di due mesi prima sembra scongiurata, in realtà il crollo è solo dietro l'angolo. L'euforia americana per la borsa ormai è diventata un'illusione contagiosa. I prezzi delle azioni continuano a salire, i piccoli investitori elettrizzati dal boom fanno sempre più debiti per poter comprare azioni. William Durant, fondatore della General Motors, afferma: la nostra fortuna si basa su una piena e totale fiducia. E intanto l'euforia del momento incita a fare una cosa sola, comprare. Il clima quell'estate non si fa caldo solo in borsa. Un'ondata di caldo record fa da sfondo al clima più surriscaldato dentro Wall Street. Alcuni titoli raddoppiano il loro valore. A giugno l'indice di borsa del New York Times sale di 52 punti, il mese successivo di altri 25 punti. Il 2 settembre 1929, Labor Day, il giorno più caldo dell'anno, i mercati sono chiusi e tutti invadono le spiagge. Un reporter chiede all'astrologa Evangeline di predire il futuro delle azioni. Lei dice che il Dow Jones può salire fino al paradiso. L'indomani, il 3 settembre, il mercato azionario tocca il suo picco massimo. È il 5 settembre del 29, al grande crollo di Wall Street manca poco più di un mese. Roger Babson, il commentatore economico che per primo aveva dato l'allarme, torna a ripetere che la crisi è vicina, molto più vicina di quanto la gente possa immaginare, e che le conseguenze di questa crisi saranno devastanti. Sono 2 anni che lo ripete, ma oggi per la prima volta qualcuno lo ascolta. Ed improvviso gli indici di borsa scendono in picchiata. Alcuni lo chiamano il crollo Babson. Però loro ancora non lo sanno, ma il grande crollo è già iniziato. Nelle settimane seguenti il mercato fluttua freneticamente su e giù. 12 settembre, la borsa prende 10 punti in percentuale, ma già in passato c'era stato un brusco crollo. I mercati azionari del mondo stanno subendo la stessa sorte. Poi, improvvisamente, il 25 settembre, il mercato migliora. Ricordo molto bene che cercai di spiegarmi il motivo per cui il mercato si comportasse in questo modo. Sapevo di essere nuovo del mestiere e pensai che se persone del calibro di Charlie Mitchell e J.P. Morgan facevano dichiarazioni ottimistiche, un motivo ci doveva essere. Io, che ero arrivato da poco, non riuscivo a darmi ragione del fatto che i prezzi continuassero a salire, ma loro continuavano a ripetere: il mercato non può scendere, e anche se oggi scende, sicuramente domani risalirà. Iniziai a pensare di avere a che fare con delle divinità. Loro sanno come vanno le cose. Se ti dicono che la situazione andrà in un certo modo, non puoi che fidarti. Era Rupert Kane, operatore di borsa. Se da una parte i mercati annaspano, i grandi finanzieri sono ottimisti come mai prima d'ora. Solamente 5 giorni prima del crack, Thomas Lamont, capo della Morgan Bank, scrive al presidente Hoover per rassicurarlo. La situazione è brillante, i titoli americani sono i più richiesti al mondo. È lunedì 21 ottobre del 29. Il presidente degli Stati Uniti, Hoover, è nel Michigan per celebrare i 50 anni della lampadina di Edison. Nel suo discorso Hoover ancora una volta celebra il grande sogno americano che in pochi decenni ha trasformato gli Stati Uniti in una terra promessa. In poche settimane però quel sogno diventerà un incubo. Arriva il 23 ottobre e lo raccontano l'economista John Galbraith e il finanziere Craig Mitchell. Il mercato era un po' incerto, debole. Non so se questa fosse la causa scatenante del pessimismo. Sta di fatto che molti iniziarono a pensare che bisognava tirarsi fuori dal mercato. Poi, il 24 ottobre, il primo giovedì nero della storia, il mercato, fin dalle prime ore della mattina, comincia a precipitare. Il mercato aprì in piena caduta libera, tant'è che alcuni non ricevettero neanche un'offerta per le loro azioni. Era puro panico. Una folla minacciosa e molto rumorosa si raccolse fuori dalla borsa. Di sicuro fu uno dei giorni più neri mai visti. Ma anche in quel giovedì nero si intravede un barlume di speranza. 22 anni prima, nel 1907, J.P. Morgan della House of Morgan era riuscito a contenere il panico. A mezzogiorno del 24 ottobre tutti gli occhi sono puntati sul suo sostituto Thomas Lamont, e a parlarcene è il nipote Edward Lamont. Tom Lamont chiamò a raccolta gli altri banchieri, Charles Mitchell della National City Bank, i responsabili del Bankers Trust, Albert Wiggin della Chase Bank e così via. In tutto saranno stati in 6. Si incontrarono per discutere le misure da adottare per arrestare la tempesta che si era abbattuta sul mercato azionario. Alle 12.30 venne annunciato che questo gruppo di banchieri avrebbe messo a disposizione un ingente flusso di denaro per alleviare gli investitori dalla morsa del credito e sostenere quindi il mercato. Subito dopo, Dick Whitney farà la sua famosa camminata alla borsa di New York. Richard Whitney, vicepresidente della borsa, è stato scelto dai banchieri come loro rappresentante. Sono le 13:30 e il panico è alle stelle. Whitney cammina attraverso la sala con disinvoltura e con voce forte e chiara ordina 10.000 azioni della U-Steel ad un prezzo molto più alto dell'ultima offerta. Visita una postazione dopo l'altra e gridando compra i titoli principali. Il segnale per tutti doveva essere che i banchieri erano arrivati a calmare il panico e per quel giorno ci riuscirono. Tant'è che il mercato si stabilizzò, anzi addirittura salì. Ma il lunedì successivo le cose non andarono bene. Le persone avevano avuto tutto il fine settimana per pensarci e molti ritenevano che fosse più prudente rimanere fuori per un po'. E fu lì che arrivò il vero crack. Era martedì. Il mercato scendeva sempre di più, senza alcun freno. È il 29 ottobre del 29, il giorno del crollo di Wall Street. L'illusione che per un decennio ha contagiato il popolo americano si sbriciola in un istante. Il crack travolge tutto e tutti con una forza inarrestabile. 29 ottobre. I banchieri di Morgan non possono più arrestare il corso degli eventi. Sarebbe come cercare di fermare le cascate del Niagara. Tutti vogliono vendere. La TNT è sotto del 50%. La RCA, una volta a $50 per azione, non riesce a trovare compratori a $26. Blue Ridge da $100 crolla a $3 e non riesce ancora a trovare compratori. Sulla piazza di New York nessuno ha mai visto una cosa del genere. Gli sportelli finanziari, i piccoli investitori, i lustrascarpe, i droghieri, i segretari osservano il nastro della telescrivente ammutoliti. La speranza di una pensione anticipata, una nuova casa, l'istruzione per i propri figli, tutto svanito in un istante. Ancora John Galbraith. Non c'è nulla di straordinario in tutto questo. È una cosa che accade più o meno ogni 20 o 30 anni, il tempo che ci vuole per dimenticarsi delle cose. Tutto dipende dal tempo che ci vuole perché arrivino dei nuovi sciocchi, se mi permettete il termine, nuove persone che hanno la vana illusione di aver trovato uno stupendo e geniale modo di sistemarsi per il futuro. Mix 24, la storia. Onorevole Tremonti, parlando del 29, lei ha detto la storia non si ripete, ma... Non si ripete uguale. Cosa c'è di uguale con la crisi di adesso rispetto al 29? Due cose sono uguali, una per fortuna, per molta fortuna diversa. Uguale è l'invenzione di ricchezza, l'illusione, sì. Si pompano i valori. Nel 29 fu con la borsa, in questi anni è stato con gli immobili in America. L'altra cosa uguale è tutto avviene fuori dalle regole. In America nel 29 in assenza di regole, perché non c'erano. Negli ultimi anni fuori dalle regole, perché le regole sono nazionali, la finanza è diventata globale. Cosa c'è di diverso, sì, e per fortuna? È che non c'è il panico perché ci sono i governi. Chi salva la borsa? I banchieri? Sì. No. La borsa e i banchieri sono stati salvati allora e ancora adesso dai governi. Ecco, Guido Rossi dice però che dal punto di vista finanziario stiamo peggio del 29, per queste ragioni che dice lei? No, credo che... I governi sono locali e la finanza è internazionale. Dice anche quello. Dice una cosa molto, molto profonda. Il capitalismo nasce sulla società per azioni da secoli, è così. Adesso una quota della finanza ha forme giuridiche diverse dalla società per azioni. I controlli, tutta la... ideologia, l'informazione sono fatti sui bilanci delle SPA, delle, certo, corporation. Adesso un pezzo importante della finanza sta è fatto fuori con altri strumenti. Io però insisto nel dire, per fortuna dei risparmiatori, di quelli che c'hanno la casa, e anche per fortuna dei banchieri, che ci sono i governi che li salvano. E allora è necessario ritornare al primato della politica sull'economia, così? È totale. Io penso che la crisi prima o poi finisce, ma non finisce l'insegnamento che viene fuori. Primo, che conta la finanza, ma conta soprattutto il lavoro. Secondo, che contano gli interessi materiali, ma contano molto di più gli interessi, che è la politica. Gli interessi, i valori della politica, i valori spirituali, contano più dei valori materiali. Per fare andare bene l'economia devi avere una visione più generale, non l'egoismo particolare. Cosa l'ha convinto che la globalizzazione ha dei limiti così com'è? C'è stato un momento in cui ha avuto un flash? Nel 95 ho scritto un libro che era intitolato Il fantasma della povertà. Io ho sempre pensato che la rottura del mondo fatta con il commercio mondiale fatto in quel modo di colpo avrebbe causato le crisi che stiamo vedendo. Cioè senza regole. La crisi alimentare, la crisi finanziaria, la crisi politica. Secondo lei cosa ci stanno a fare i cinesi in Africa o i cinesi in America Latina? Me lo dica lei che è più esperto. Io penso che, lo dice da ultimo, non in questo modo, ma una serie di rapporti che si stampano, si leggono nel mondo, o ci diamo una regolata a tutti, oppure viene fuori un caos più brutto di quello che già c'è adesso. Senta, lei dice il mercatismo è il male di oggi. In due parole, che cos'è il mercatismo? Ma è stata per 10 anni l'idea che l'economia sa tutto, fa tutto, può tutto, che tutto è nell'economia. Noi pensiamo, io penso che la vita non è contenuta nel prodotto interno lordo, che ci sono tante cose. Il prodotto interno lordo è una cosa importante, certo. Ma ci sono tante cose che non stanno nel prodotto o nell'import-export. Che si misurano in un altro modo. Vogliamo un esempio? Guarda il Tibet. Lì capisci che esiste l'export verso la Cina, esiste l'import dalla Cina, ma ci sono valori, sentimenti e principi, l'idea della libertà, della dignità umana che vanno molto oltre. I popoli lo sanno e hanno avvisato i governi che invece volevano fare politica realpolitik. Sento, ma quando lei dice che la globalizzazione è stata preparata, lo dice, da illuminati e messa in atto da fanatici della ricerca del paradiso terrestre, a chi pensa? Ma tutta quella cultura, quella ideologia per cui se eri un banchiere diventavi uno statista, se eri un banchiere statista andavi in giro come un padre della patria, l'idea che l'economia sapeva e poteva tutto. Abbiamo visto nel 29 idolatrati i banchieri, signori, sì. Esatto. È capitata la stessa cosa, dice. Diciamo che caduto il muro di Berlino si è attivata una cascata di forze, di fenomeni molto complicata e devo dire di idee, di interessi, di mondi che si confrontavano. Non potevi fermare tutto questo, ma potevi farlo in tempi più lunghi. Quindi è il discorso dei tempi che faceva prima. In tempi più lunghi e più saggi. Ecco, quindi tra Parigi, che è la sede dei lumi, e Roma, che è la sede, diciamo così, della spiritualità, oggi serve più Roma di Parigi. Diciamo che non è... Per semplificare, la questione delle radici non è laici verso religiosi, valori della laicità, dell'illuminismo verso i valori spirituali. Ed è che idea hai dell'Europa? Pensi che l'Europa debba essere uno spazio commerciale aperto con alcune autorità amministrative vigili, urbani o diurni del traffico, o vuoi un'Europa politica che cominci... Certo. Dai popoli, dal Parlamento. Ecco. Lei nel suo libro, sempre a proposito di valori, ha citato il Papa, là dove dice non si può governare la storia prescindendo da Dio. Davvero lo crede anche lei? Sì, assolutamente. Ma in che senso? Che la storia è fatta anche e soprattutto dai valori spirituali. A leggere il suo libro, in qualche modo, viene quasi in mente Gesù che scaccia i mercanti dal tempo. È un'immagine che le piace? Diciamo che i mercanti dal Tempio sono stati scacciati dai popoli che non ci credono più. L'economia, ripeto, è importante, ma l'economia non è tutto. Lei, appunto, lo stavamo dicendo, ha invocato anche un ritorno chiaro, esplicito, alle radici giudaico-cristiane dell'Europa per affrontare la crisi e non solo. Perché è necessario questo ritorno? Un po' l'ha detto. Le dico una cosa che magari la stupisce. Le stesse cose le ha dette Paolo Prodi, che non è sospettabile, come dire, di vicinanza. Senta, le faccio un'ultima domanda. Dopo tutto quello che abbiamo detto, ma lei in Dio ci crede o no? Sì. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.